Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, cari ascoltatori, e benvenuti alla prima puntata di questo nuovo programma che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto. Nessun luogo è lontano, la grande attualità internazionale, le storie, grandi e piccole, dall'altra parte del globo, ma anche le questioni dimenticate e i conflitti irrisolti. Insomma, non solo non andiamo in ferie, ma cercheremo di essere il vostro quotidiano osservatorio sul mondo. In redazione a confezionare con me questo programma c'è Valeria Coffaro, in regia oggi c'è Fabio Cantadori, il sommario. In Messico, il consolato statunitense a Ciudad Juárez è chiuso da venerdì scorso. 4 cronisti erano stati rapiti, poi 3 sono stati liberati. Migliaia i morti dall'inizio dell'anno. È in atto una preoccupante escalation militare in Messico. I narcotrafficanti hanno trasformato intere regioni del paese in un inferno. Chi sono i nuovi signori della droga? Quali sono le nuove vie con cui la coca arriva in Europa e in Italia? Ne parliamo con Roberto Darin, collega del Sole 24 Ore, Antonio Maria Costa, direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite sulla lotta alla droga e al crimine, e col tenente colonnello Mauro Scenna, della Direzione Centrale Servizi Antidroga, diretta da Gaetano Chiusolo. Per intervenire, naturalmente, nell'ultima parte del programma, parleremo anche di altro, perché vi proporremo i nostri WhatsApp e le nostre notizie dall'altro lato del mondo, ma senza dimenticare un aspetto, diciamo così, folcloristico di quello che è il narcotraffico, la celebrazione dei capi e delle gang a suon di rap, libri, murales, tatuaggi, insomma, perché il potere dei narcos affascina così tanto. Allora, le coordinate per intervenire e interagire con noi sono 349-238-6666, se volete pormi delle domande a me o ai miei ospiti via SMS. C'è la pagina Facebook, Nessun luogo è lontano, oppure le mail, se non vi bastano 160 caratteri per porre una domanda, è nessunluogo@radio24.it. Ma siccome Nessun luogo è lontano, io vi porto a Ciudad Juárez, in Messico. Desgraciadamente, día tras día, son asaltos, son robos, no hay un ciudadano en lo personal que no nos hayan agredido, muy en lo particular en nuestra familia, nos asaltan a diario, ya no, es un país que no garantiza la seguridad aquí en México. Questa donna, intervistata dalla televisione messicana, dice: ogni giorno ci sono assalti e rapine, non c'è nessuno che non sia stato aggredito, lui o un membro della sua famiglia. Il Messico è un paese che non garantisce la nostra sicurezza. In effetti la situazione nel paese americano appare fuori controllo. Un reporter americano arriva sul luogo di una sparatoria e chiede ai colleghi messicani com'è la situazione. Ascoltate la risposta. Que es un día normal para periodistas en Culiacán, ¿no? Pasar domingo muy tranquilo. Uh-huh. Eso es tranquilo. Es tranquilidad, como dice nuestro gobernador. Pero 2 muertos, 2 días, no me parece muy tranquilo. Para nosotros sí. Per noi sì, per noi è tranquillo, 2 morti in 2 giorni. Questa è la realtà del nord del Messico. Gang armate fino ai denti, sparatorie che si accendono improvvise per le strade, omicidi, attentati, 2 settimane fa persino un'autobomba. La regione, al confine con gli Stati Uniti, sta diventando uno dei posti più pericolosi al mondo. Siempre listo, operativo al mando, con los radios bien pilas, y su gente ya hizo la fila en la caravana. E le musiche che ci faranno da colonna sonora quest'oggi sono i brani narco hip hop di Cano y Blunt. Cano y Blunt vivono in quartiere popolare di Reynosa, sono 2 giovani rapper. La maggioranza della popolazione di Reynosa è operaia, vive nella catena di montaggio, ma c'è anche molta disoccupazione e i narcos padroneggiano. Beh, le loro canzoni, i loro testi prendono proprio ispirazione da quello che succede nelle strade e dalla tanta violenza che si respira in Messico. Allora, intanto do il mio benvenuto a Roberto Darin, che lui sì, insomma, ha toccato con mano, ha respirato un po' di quella violenza, perché è un collega del Sole 24 Ore, esperto in America Latina e che torna fresco, si fa per dire, dal Messico. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. Allora, Roberto, arrivano scampoli di notizie qui in Europa, ma in realtà ne arriva, come dire, una parte, perché quello che sta accadendo in Messico è incredibile, c'è un'escalation senza precedenti. Cerchiamo di mettere un po' di ordine. Chi si sta combattendo? Quali sono gli attori di questa escalation militare? Ma ci sono 6-7 grandi cartelli in Messico che controllano il traffico di stupefacenti. Naturalmente la zona dove sono più attivi è il confine e soprattutto le città gemelle, ovvero le città di confine. Una si chiamano città gemelle perché alla città messicana corrisponde a poche centinaia di metri una città americana, quindi a Ciudad Juárez confina con El Paso, che è in Texas, Tijuana nella costa ovest confina con San Diego, e sono queste, così come queste due, ce ne sono molte altre, ed è lì che passa il maggior quantitativo di droga. Sì. Il Messico vive una fase drammatica, quasi 23.000 morti dal 2007 a oggi, una vera guerra, e qualche mese fa una polemica ha investito il paese. Il Messico è un paese fallito, questo hanno dichiarato alcuni parlamentari, sì, proprio per rimarcare l'enormità della crisi e l'impossibilità fino ad ora di fronteggiarla in maniera efficace. Sì. Fra l'altro c'è stata poi una polemica, sembra scaturita dalla penna di chissà quale scrittore noir, perché due settimane fa, quando c'è stato l'autobomba, il cartello che ha rivendicato questa esplosione, che è stata la prima, terrorismo islamico, è stata la prima a colpire il Messico, ebbene il cartello che ha rivendicato questo attentato ha detto all'FBI che dovevano indagare su presunte collusioni dell'esercito, del governo messicano, con il cartello avversario. Qui è fantapolitica o cosa sta accadendo? Non è affatto fantapolitica, questa zona, questo è un dibattito aperto in quest'area che viene chiamata a Mexica, proprio per ironizzare sul fatto che sia un po' America, un po' Messico, ma sì. Il Presidente della Repubblica, il Presidente Felipe Calderón, ha dichiarato lui stesso che l'80% dei poliziotti messicani sono collusi con i cartelli della droga, quindi è un intreccio purtroppo difficile da dipanare, ma con un'escalation di violenza inaudita, tanto che mi pare che gli ultimi numeri, le ultime statistiche indichino che a Ciudad Juárez, al confine appunto con gli Stati Uniti, con il Texas, ci siano ormai un numero di morti superiore a quello dell'Afghanistan, che si registra in Afghanistan o in Iraq, quindi è senza dubbio una delle due o tre città più violente al mondo. Questo è una contrapposizione, quella che viene vissuta molto violenta tra due mondi che sono così vicini e così lontani, quello del consumismo e quello della penuria, quello del consumo di droga e quello della produzione di droga. Ecco, spieghiamo meglio che il Messico, che è, come dire, un hub particolarmente appetibile per i narcotrafficanti, è appunto un hub, cioè è un punto di passaggio. La droga dalla Colombia arriva in Messico, dove, come dire, essendo in terra di nessuno, perché le gang riescono a padroneggiare, riescono un po' a fare quello che vogliono, la droga arriva con dei sottomarini a volte. C'è un'inchiesta del Times di un mese fa che mostra una foto incredibile di un sottomarino individuato nel letto di un fiume nella foresta colombiana. Sì, questo è vero, questo è accaduto, è stato registrato, dei piccoli sottomarini, quindi ci sono dei canali molto anche tecnologici, consentono poi di raggiungere le sponde messicane e da lì il passaggio è molto facile, perché solo a Ciudad Juárez verso il Texas, solo in questa città ci sono 5 passi con un volume di merci quotidiano di migliaia di tir, e quindi è molto facile imboscare enormi quantitativi di droga. Io ho assistito alcune settimane fa a una cerimonia ufficiale in cui hanno presenziato l'esercito, la polizia, responsabili del governo, rappresentanti del governo, in cui si bruciavano tonnellate di droga, ma quelle sono in fondo piccole quantità, come a testimoniare che la lotta alla droga prosegue, sì, ma queste in verità sono piccoli quantitativi, punte al confronto, sì, di quanti ne passano invece ogni giorno. Ecco, allora cerchiamo di fare un attimo chiarezza, ascoltiamo insieme una scheda che fotografa meglio il mercato della polvere bianca. La coltivazione della coca nei paesi andini è in diminuzione. La stretta sui cartelli colombiani ha dato i suoi frutti e il consumo di cocaina negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni è in significativo calo. Il valore del mercato statunitense della cocaina è infatti diminuito di 2/3 negli anni 90 e di 1/4 negli ultimi 10 anni. La conseguenza di questa contrazione è sotto gli occhi di tutti. I narcotrafficanti si contendono fette di mercato sempre più piccole a suon di pallottole. Risultato: i prezzi salgono mentre i volumi diminuiscono. Ma se in America si registra un calo significativo grazie anche ai maggiori controlli, in Europa il numero dei consumatori in un decennio è più che raddoppiato, passando da 2 milioni di consumatori nel 1998 ad oltre 4 milioni nel 2008. 2 anni fa il mercato della coca nel vecchio continente valeva già 34 miliardi di dollari, una cifra paragonabile al valore del mercato nordamericano. La nuova via della cocaina parte quindi dai paesi andini, fa tappa nell'Africa dell'Ovest, in paesi come la Guinea-Bissau o la Liberia, e arriva in Europa. Allora Roberto, stiamo cercando di tracciare quella che è la rotta della cocaina che parte dalla Colombia, passa per il Messico come ci hai aiutato a capire e poi arriverà appunto in Europa passando per nuovi hub come la Guinea-Bissau. Un'ultima domanda, perché poi ci lasciamo ma ci risentiamo in chiusura di trasmissione. Quanto è difficile per un giornalista andare a lavorare in Messico, perché è notizia di ieri che sono stati liberati 3 dei 4 cronisti che erano stati rapiti, fra l'altro anche questa è come dire una novità in questa escalation di violenza. Effettivamente sta diventando difficilissimo anche andare a testimoniare, andare a fare i reporter lì in Messico. Quanto è difficile lavorare lì? Ma sai, dunque, se uno lavora in Messico sostanzialmente le cose non ci sono grandi rischi, perché comunque la città è una città di 20 milioni di abitanti che non è una città militarizzata fino a questo momento. Il difficile è andare nelle zone di frontiera dove effettivamente accadono ogni giorno decine di omicidi, dove i fatti di cronaca nera sono sconcertanti, dove il mercato americano non solo quello della droga ma anche quello della pedopornografia ha fatto scomparire 300 donne negli ultimi anni, quindi sono paesi davvero faticosi. Noi 2 anni fa abbiamo fatto anche un altro reportage uscito sul Sole in cui siamo andati appunto al di là della frontiera con i coyote, cioè i trafficanti di uomini, sì, quelli che per $1,000 o $2,000 portano alla frontiera con gli Stati Uniti. Ecco, perché lì in effetti c'è, come dire, un'altra questione che si sovrappone, questo gigantesco muro messicano statunitense che fronteggia quella che è l'immigrazione irregolare. Nessun luogo è lontano. Ehi, hey, al comandante Metro 3 de parte del 90 una dedicación, puro flow de Cali. Era del gobierno, ahora es de la banda. Tiene chingo de gente que donde quiera manda. Siempre se la ha rifao, el metro arrebasa. Reynosa la maldosa, por eso es su plaza. Saludos para el jefe, jefe extraditado. Para el señor Ociel, el metro no se ha olvidado. Miguel Alemán, el muy conocido. Matamoros, Díaz Ordazca, Amargo son testigos. Como vida. E sulle note del narco hip hop di Cano y Blunt, questi due rapper che raccontano la realtà messicana al limite della celebrazione di questi capi, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, quest'oggi stiamo cercando di comprendere, partendo dagli ultimi eventi messicani, come si muove il mercato della cocaina, come la polvere bianca riesca ad arrivare in Italia. Prima di introdurre il nuovo ospite vi ricordo le coordinate per interagire con noi, che sono il 349-238-6666 per gli sms, la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano, oppure l'email nessunluogo@radio24.it. Allora do il mio benvenuto al dottor Antonio Maria Costa, che è direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite sulla lotta alla droga e al crimine. Buongiorno Costa. Buongiorno Semeni. Allora, stiamo cercando di capire quanti attori sono in gioco nella gestione di questo complesso mercato che è quello della polvere bianca e che comunque resta uno dei più redditizi al mondo, o mi sbaglio? rimane uno dei più redditizi al mondo, indubbiamente, insieme ovviamente all'altra droga, e cioè l'eroina, che è di provenienza afghana. I due grandi poli sono l'eroina dall'Afghanistan e la cocaina, soprattutto dalla Colombia. Sì. Non dobbiamo però parlare di un mercato come fosse un'entità stabile, fissa, con i propri principi, le proprie coordinate. Il mercato della droga, soprattutto della cocaina, è in forte evoluzione. Una decina di anni addietro era in mano soprattutto ai colombiani, i quali producevano, cioè coltivavano, raffinavano, esportavano e dettagliavano persino nelle strade di New York, eccetera. Ormai da qualche anno i narcotrafficanti messicani hanno sbaragliato i colombiani dal mercato americano, sì. Si sono impossessati del traffico, non del dettaglio, del traffico attraverso l'America centrale, attraverso il Messico naturalmente e i Caraibi. E ci stiamo osservando un'ulteriore evoluzione, ma attendo una sua interazione, Mussomelici, per certo, certo. Allora, l'interazione ci viene da un riferimento cinematografico che ascoltiamo insieme. Che ti avevo detto, Derek? Ottima. Io che ci faccio con questa roba? La vendi? Santo cielo, George, non ti vedo per 2 anni e ti ripresenti alla mia porta con 55 kg di polvere. Tu pensa a venderla, Derek? D'accordo. Ma mi ci vorrà almeno un anno. Trentasei ore? Non è possibile, l'abbiamo data via in 36 ore. Mi pare il caso di dire che avevi sottovalutato il mercato. Ci vorrà più tempo per contare i soldi di quanto ci abbiamo messo a piazzarla. Allora, Blow era questo film del 2001 in cui uno strepitoso Johnny Depp dava voce, volto e corpo a quello che era George Young, detto Boston George, che era un grandissimo spacciatore, aveva lavorato con Pablo Escobar. Insomma, quando si gestiva l'85% del traffico di cocaina dalla Colombia verso gli Stati Uniti. Adesso abbiamo capito che sta cambiando il mercato. Quelli erano i tempi d'oro del traffico, il mercato era in espansione, c'erano fette di torta per tutti. Adesso, dottor Costa, che cosa sta succedendo? La torta si è ridotta o ci sono più commensali al tavolo? Ah, lei ha posto il dito su effettivamente quella che è la piaga del narcotraffico, cioè le difficoltà che il narcotraffico sta incontrando. Noi stiamo, in questo momento, la sua domanda è centrata non sul mercato europeo, ma sul mercato nordamericano, che è in fortissimo calo. Il mercato nordamericano per la cocaina dal 2004 a praticamente gli ultimi mesi è sceso del 50%, una questione di riduzione della domanda per varie ragioni, possiamo fare un approfondimento successivo. Questo sta obbligando i narcotrafficanti, di riferimento naturalmente sono quelli messicani, sì, a ingaggiarsi in una lotta senza quartiere tra di loro al fine di mantenere una presenza sul mercato che, come dicevo, è in forte riduzione. Adesso, sì, al di là delle guerre di gang tra i messicani, i colombiani e così via, c'è proprio un cambiamento strutturale nel mercato dovuto a cambiamenti nella preferenza, dovuto a una svalutazione del dollaro e fondamentalmente una gioventù americana che si sta indirizzando verso altri tipi di droghe, abbandonando la cocaina in maniera massiccia. Mentre quello che sta accadendo in Europa è esattamente quello che è accaduto negli anni 70-80 negli Stati Uniti, cioè un mercato in espansione, e vuol dire anche i giornali italiani riportano continuamente di arresti, di come la polvere bianca entri tragicamente e prepotentemente nella quotidianità. Perché il mercato europeo adesso è appetibile? Per 2 ragioni, anche se senza correggerla vorrei porre una postilla a piedi pagina al suo commento. In effetti noi notiamo ormai da direi un anno, 12-18 mesi, un rallentamento della crescita del consumo di cocaina in Europa, e direi che proprio la fase esplosiva che è iniziata verso il 2000-2001 si è esaurita nel 2008, ormai c'è un appiattimento, se non addirittura in certi paesi una riduzione. Sì. E ovviamente quando parliamo di Europa dobbiamo ricordarci che ci sono 3 paesi, sì, il Regno Unito numero 1, la Spagna numero 2 e l'Italia numero 3, il, sì, problema non è serio né in Germania né in Francia né negli altri paesi. Ora, tornando al discorso anteriore, il perché. Prima cosa, ovviamente un cambiamento strutturale nell'atteggiamento dei tossicodipendenti che hanno abbandonato in grande misura i narcotici, e cioè l'eroina, e cioè l'oppio. Sì. Sulla base di un narcotico, il tossicodipendente fondamentalmente dorme e vede un elefante che vola con 5 zampe di colore rosa, insomma. Sì. Non è una cosa molto stimolante, mentre la preferenza è passata agli alle sostanze psicoattive come la cocaina, come sì. certe sostanze sintetiche sì. che sono poi alla base dei rave parties, sono alla base di tanti altri comportamenti che noi associamo alla gioventù moderna. C'è stato fondamentalmente un cambiamento strutturale anche dovuto a un effetto offerta, e cioè la potenza dell'euro, la crescita del tasso di cambio dell'euro ha spinto i narcotrafficanti ad abbandonare il mercato americano col dollaro svalutato e orientarsi verso le valute forti. Quindi la finanza, in qualche modo, la finanza valutaria entra prepotentemente nelle decisioni dei narcotrafficanti. A proposito di decisioni dei narcos, c'è un nuovo hub, nuovo, almeno 2-3 anni se ne parla, che è l'Africa occidentale, paesi come la Guinea-Bissau o la Liberia, dove i colombiani fanno delle piste per far atterrare gli aerei impunemente, decidono qua facciamo un aeroporto. Parlo delle isolette di fronte ad esempio a Bissau, ci sono reportage, ci sono testimonianze incredibili su questo aspetto. Perché è conveniente fare passare la cocaina dalla Colombia al Messico, Guinea-Bissau e poi Europa? Dunque no, la cocaina non viene dal Messico, viene originariamente ovviamente dalla Colombia, ma sì. transita soprattutto attraverso il Venezuela e la costa orientale del Brasile per entrare nell'Africa occidentale, i paesi che lei ha citato. Sì. Hanno cominciato nel 2004 con l'isola di Capo Verde, noi le abbiamo protette, uno sforzo di polizie importante, e sono passati al continente, cioè Guinea-Bissau, Conakry, Ghana, Gambia e così via. Perché? Due ragioni. Una ragione di carattere logistico, e cioè economie, paesi aperti, frontiere non controllate, organi di polizia corrotti, funzionari politici e di frontiera corrotti, e perciò facile penetrazione, sì. a parte questi aeroporti che lei ha citato, che sono stati costruiti dai portoghesi durante la guerra coloniale. E poi naturalmente questa droga veniva riorganizzata, ristrutturata nella spedizione e inserita in spedizioni legittime, in esportazioni legittime di questi paesi. I funzionari europei, italiani per esempio tra essi, non sapendo perché non c'è droga prodotta nell'Africa occidentale, certo. innocentemente lasciavano passare i carichi, convinti che ci fossero mango, frutta, papaya. Ecco, esattamente. E poi una seconda, che è il secondo problema, che è quella che mi angustia di più. Ovviamente quel mercato americano saturato è in calo forte, quello europeo in ristagno, i trafficanti stanno cercando nuovi mercati. E in effetti pagano i soldati locali, la manovalanza locale, sì. che li aiuta con un 30% del prodotto, e questo 30% è venduto localmente. Io vedo, e lo parlo a nome delle Nazioni Unite, sì. io vedo sullo schermo un grossissimo problema, un grossissimo rischio di problema di tossicodipendenza. Direi in tutto il terzo mondo, un problema che loro, il terzo mondo, non ha mai avuto, la droga essendo stato un privilegio tragico dei paesi. Certo, certo. In questo modo, quindi, insomma, si deve lanciare un allarme in paesi come la Guinea-Bissau, la Liberia, appunto, che da semplici paesi di transito potrebbero diventare mercati finali per i narcotrafficanti. Esattamente, questo è l'allarme che noi stiamo lanciando da tempo. Vorrei aggiungere che mentre il problema dell'Africa occidentale, le Guinee e così via, alle quali lei ha fatto riferimento, sono afflitte da rischio di cocaina, i paesi dell'Africa orientale, e cioè la Somalia, ma a parte il dramma della Somalia, il Kenya, la Tanzania e così via, rischiano e stanno ormai soffrendo enormemente di influsso di eroina afghana. L'Africa purtroppo è colpita da una manovra tenaglia di trafficanti sì. che vogliono soggiogarla dal punto di vista della tossicodipendenza usando da un lato la cocaina e dall'altro lato l'eroina. Grazie allora dottor Costa per questo suo contributo, per questa sua testimonianza. A noi tutti un augurio di buon lavoro. Grazie, arrivederci e buon lavoro a voi. Para Guantalina, zumba las bocinas, la llanta es caliosa, no más oye que rechina, brillando se engorra, en la troca la zorra, montado en la troca, todo lo que corra. Zumba la cañada, no le teme a nada, mucho poder nunca, pero solo una amada, le gusta el rol, por todo Reynosa, le gustan las trocas, mala paletosa, la vida que goza, como a él le gusta, y esos envidiosos para nada que lo asustan, él tiene su clica que para la pelota, va de Guasalinas, pa' toda su flota. nessun luogo è lontano. Signore R1 al comando, siempre listo, operativo al mando, con los radios bien pilas, y su gente ya hizo la fila, en la caravana puro guerrero. E questo è il narco hip hop di Cano y Blunt. Stiamo parlando di cocaina, di rotte della coca, qui a Nessun Luogo è Lontano, ma adesso voglio raccontarvi una storia. Questa storia inizia il 7 marzo del 2010, quando Mario Rodriguez, imprenditore colombiano 50enne, scende dal volo Bogotà-Roma, dove ha volato in business class. Il signor Rodriguez è il titolare di un'impresa elettronica e si occupa anche di commercio. È vestito di un elegante completo blu e ha vistosi occhiali da sole firmati. Rodriguez si reca allo Sheraton, dove ha preso una camera. Lì lo aspettano tre uomini d'affari italiani, titolari di una società che si occupa di logistica. I quattro devono parlare dell'arrivo al porto di Genova di un paio di container contenenti frutta sciroppata. A cena Rodriguez dimostra tutta la sua conoscenza della gastronomia italiana e dei vini. È uno abituato a viaggiare, Rodriguez, è uno che ama la bella vita e deve essere uno che ha il fiuto per gli affari. L'impresa italiana lo porta a Genova a vedere gli uffici e gli impianti di stoccaggio per la merce. Rodriguez si convince che i tre soci italiani sono gli uomini giusti. L'accordo viene siglato, la merce arriverà a Genova e verrà consegnata ad un'altra ditta italiana. Fin qui tutto normale, se non fosse che la frutta sciroppata sono in realtà 470 kg di cocaina pura al 92%, che Rodriguez lavora con i narcotrafficanti colombiani e che i tre italiani sono tre investigatori dei servizi antidroga. Buongiorno al colonnello Scenna, non ho inventato troppo, vero colonnello? No, buongiorno a lei. No, non ha inventato quasi nulla. L'uomo d'affari colombiano in effetti è un fiancheggiatore di una organizzazione paramilitare colombiana che si occupa di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Lui si inserisce in questo traffico acquistando i debiti delle organizzazioni criminali italiane e spagnole. E acquistando i debiti quindi paga in anticipo i narcotrafficanti colombiani, dopodiché si reca in Europa una volta arrivato lo stupefacente o ancor prima per verificare la rotta, lo sdoganamento, tutti i problemi connessi all'introduzione illecita di stupefacente e a riscuotere ovviamente i crediti, guadagnando un 7, 8, un 10% rispetto alla somma che ha già elargito ai narcotrafficanti colombiani. Allora, tenente colonnello Mauro Scenna è a capo del servizio analisi della Direzione Centrale Servizi Antidroga, diretta da Gaetano Chiusolo. Voi avete 20 uffici sparsi in tutto il mondo e fondamentalmente date la caccia a questi narcotrafficanti. Nell'operazione che io mi sono permesso in qualche modo, come dire, di drammatizzare, dargli una veste drammaturgica che sembra uscita, no, dalla pena di un manziere, invece è realtà. Voi siete riusciti a sequestrare due partite di cocaina, avete scoperto soprattutto qual era l'anello italiano che avrebbe poi ricevuto la droga, giusto? Sì, quello era il nostro obiettivo finale, diciamo, far emergere l'organizzazione italiana che acquista questo stupefacente. Inizialmente non sapevamo nulla di questo. E un nostro confidente residente in Colombia è riuscito ad inserire i nostri undercover, che sono i tre soci, diciamo, di questa. Esattamente, li ha presentati come titolari di una società di import-export, diciamo di logistica, capaci di avere delle entrature nel porto di Genova, per cui il container proveniente dalla Colombia o dal Venezuela, perché i carichi sono stati due, uno direttamente dal porto di Cartagena e uno da un porto venezuelano. E quindi si sono presentati come uomini d'affari capaci di agevolare le operazioni di sdoganamento. Sì. Come le diceva all'inizio, questo personaggio, questo Rodriguez, è venuto in Italia a verificare di persona le capacità imprenditoriali di questa società. È stato ricevuto all'aeroporto di Fiumicino, è stato accompagnato all'hotel Sheraton. Inizialmente sì. Lui, la sua società, la sua agenzia di viaggio colombiana, aveva prenotato l'hotel Baglioni. Il che avrebbe causato qualche problema per le microspie. Sì, avevamo già una stanza attrezzata allo Sheraton e qui l'abbiamo dirottato lì con la scusa che l'albergo è più sicuro, più sì. movimentato. Gli abbiamo dato delle schede telefoniche definendole sicure, in effetti erano già sottoposte a intercettazione, quindi siamo riusciti certo. a rilevare tutti i numeri telefonici chiamati in Colombia e anche in Spagna, perché aveva dei collegamenti in Spagna. Come lei giustamente ha detto, sì, era un uomo capace di vivere in ambito internazionale, sapeva abbinare benissimo i vini italiani con le pietanze che ordinava, quindi un uomo abituato a viaggiare, a muoversi bene nell'ambiente sì, in certi europeo, contesti, insomma, colombiano. Certo. E, colonnello, la interrompo, gli italiani che poi ricevono materialmente la cocaina, chi sono? Sono le grosse organizzazioni mafiose italiane? Principalmente Camorra e 'Ndrangheta, che però hanno qui nel Lazio, hanno loro affiliati, infatti al termine di questa operazione conclusa di recente sono stati arrestati dei personaggi appartenenti alla criminalità romana, laziale. Sì. Diciamo. Quanti sono gli attori in gioco, cioè dal vostro confidente lì in Colombia, passando per il signor Rodriguez e poi i criminali qua italiani, quanti attori entrano in gioco, sinteticamente? Una decina, direi. Com'è possibile che un grammo di cocaina che costa in Colombia, mi corregga se sbaglio, un chilo di cocaina che costa 1500 euro arrivi a quanto qua in Italia? Ma guardi, un chilo, si può acquistare un chilo di cocaina anche abbastanza facilmente in Colombia, come lei diceva, con 1500 euro. Sì. Giunto qui in Europa, in Italia o in Spagna, una volta sdoganato, un chilo di cocaina si può acquistare a non meno di 35.000-40.000 euro. C'è da tenere presente però che un chilo di cocaina acquistato in Colombia è pura al 90-92%. Sì. Una volta in Italia viene immediatamente tagliato con caffeina, con lidococaina, quindi da un chilo se ne ricavano 4 chili. Quindi partendo da quei 1500 euro immediatamente abbiamo un 4 chili di prodotto, certo, di 160.000 euro. E così, poi consideri che una dose di un grammo viene venduta a 50-70 euro, moltiplicato per 4.000, sì, puoi immaginare, insomma, 1.500 euro colombiani ritornano qui ad essere 280.000 euro circa. Ecco, questo per dare un'idea, insomma, di quanto renda il business della cocaina, che è davvero, assieme a quello dell'eroina, il business principe ai noi, al mondo. Io la ringrazio, colonnello Scenna, le auguro un buon lavoro, un buon proseguimento, grazie, insomma, nelle vostre difficili indagini a livello internazionale. Grazie. Grazie a lei, dottor Mossignasci. Somos puro Reynosa, un chingo de malandro, pura gente mafiosa, lo sufre solo goza. Reynosa la maldosa, la calle es peligrosa, póngase matrucha, pura gente maldosa, somos puro Reynosa. E ancora buongiorno a Roberto Darin, corrispondente dal Sud America del Sole 24 Ore. Ti abbiamo richiamato perché in chiusura di trasmissione vorremmo con te affrontare, pur fugacemente, quello che è un aspetto incredibilmente e tragicamente affascinante, cioè i narcos che girano con pistole d'oro, che hanno tombe con l'aria condizionata dove i loro cari possono pregare con tutti gli agi e i comfort, che hanno rapper che dedicano loro canzoni, le modelle non si sottraggono al fascino dei narcotrafficanti. Perché tutto ciò? Perché il narcos ha questo potere, questo ascendente sui messicani e non solo? È semplice, perché c'è una cultura della droga, ecco, questo è l'elemento più straordinario nella sua drammaticità. Ecco, dappertutto i giovani più poveri vengono facilmente reclutati in attività malavitose, questo accade in tutto il mondo, anche in Italia. Ciò è facile per ragioni appunto intuibili, poche sì, prospettive di lavoro, emarginazione, ma qui invece in Messico c'è una ritualità nella cultura dei narcos, quindi c'è un santo, quindi ci sono attività di devozione, il santo è Jesús Malverde, si chiama, sì, Gesù Malverde, una specie di Robin Hood, sì, l'angel de los pobres, l'angelo dei poveri, uno che nella ritualità e nella cultura messicana viene ora venerato soprattutto dai narcotrafficanti. Questo accade a Sinaloa, che è una, sì, delle regioni messicane più colpite dal narco, sì, che dal nome anche a uno dei cartelli, è anche uno dei cartelli, certamente, e al santo vengono attribuiti miracoli, guarigioni, benedizioni, portano frutti di mare conservati in alcol come omaggio e per una pesca buona. Sì. La Chiesa cattolica ovviamente non gli riconosce lo status, chiaramente, ma per i messicani importa poco. Certo. E c'è un aspetto mistico, mi sembra di capire, no? Che fa molta presa tra i giovani nell'abbigliamento, addirittura si richiamano anche chi ovviamente sono la maggior parte, non ha i mezzi dei narcos, però si richiama al look dei narcos, quindi purtroppo questo è un elemento inquietante perché sta a significare che ha fatto breccia sì. Questa cultura, quindi al di là dell'aspetto dei morti che è sicuramente inquietante, questo fa pensare che ci sia un prosieguo di attenzione, di emulazione verso sì. i narcos da parte e le attività legate al narcotraffico da parte dei giovani, spesso ragazzini di certo. 15 anni. Certo, grazie alla creazione di quella che dobbiamo definire come subcultura dei narcos. Roberto, ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro. Sei in ripartenza per il Messico nuovamente? Okay? Sono in ripartenza per l'Argentina. Per l'Argentina. Allora ti auguro un buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Arrivederci. Nessun luogo lontano sta quasi per giungere a conclusione, non prima di aver sentito i nostri WhatsApp. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. Le notizie dall'altro lato del mondo vi porto innanzitutto in Cina, dove centinaia di persone si sono scontrate con la polizia ieri pomeriggio nella regione meridionale cinese del Guangdong durante un raduno a favore del dialetto cantonese. Alcuni giornalisti e manifestanti sono stati arrestati per breve tempo dalla polizia. Il secondo raduno in due settimane è stato provocato dalla proposta di trasmettere in cinese mandarino e non più in cantonese buona parte dei programmi della TV locale. In Iran 17 detenuti politici sono entrati in sciopero della fame, tra i quali ci sono diversi giornalisti e studenti arrestati dopo le manifestazioni antigovernative dell'anno scorso e appunto sono entrati in uno sciopero della fame nel carcere di Evin a Teheran. A riferirlo sono i siti dell'opposizione, che aggiungono anche che 5 di loro sono stati ricoverati in ospedale. In Australia si avvicina la scadenza elettorale che è prevista per il 21 agosto. Gli ultimi sondaggi relativi alle elezioni politiche confermano la rimonta dell'opposizione conservatrice, che ormai è testa a testa con il governo laburista, mentre i Verdi, che sono la terza forza che si presenta sulla scena, sono accreditati del 12% e hanno una campagna piuttosto tosta, fatta di proposte per un trattamento più umano per i richiedenti asilo, no alle discariche di scorie nucleari, il bando alla pubblicità del cibo spazzatura e la legalizzazione dei matrimoni omosessuali. Questi erano i nostri WhatsApp di oggi, noi siamo ai titoli di coda, non mi resta che ringraziare Valeria Coffaro in redazione, Fabio Cantadori che ci ha aiutato alla parte tecnica.